Perfetto giorno. Le notizie in 60 minuti. E i 60 minuti iniziano a questo punto, sono le 13:20. Buona giornata da Enrico Pagliarini. Questi titoli, le notizie principali di Effetto Giorno. Il mondo saluta Shimon Peres, uomo della pace. Aveva vinto anche il premio Nobel. Anche il secondo dei Marò, Massimo Latorre, può rimanere in Italia fino al termine dell'arbitrato fra Italia e India. Ad Aleppo il governo siriano prepara una vasta offensiva di terra, anche oggi bombardati due ospedali in città. Si farà la fusione tra le Ferrovie dello Stato e l'ANAS nel nuovo piano industriale della FS, previsti investimenti per 94 miliardi nei prossimi 10 anni, cresce anche il personale. Allora iniziamo con, avete sentito il nostro titolo principale già da questa mattina all'interno di GR24, il ricordo di Shimon Peres scompare, uno dei protagonisti di prima fila della storia dello Stato di Israele. A 93 anni è morto l'ex presidente e premio Nobel per la pace. Dal 13 settembre era ricoverato in ospedale per un ictus. Il percorso di ciascuno di noi è frutto anche di coincidenze e quello di Shimon Peres non fa eccezione. Fu facendo autostop che incontrò David Ben-Gurion, fondatore e primo ministro di Israele, polacco come lui che dall'Europa era arrivato in Palestina a 11 anni. Così entrò in politica, dove negli anni ha scalato tutte le posizioni, parlamentare, ministro, primo ministro, presidente, inanellando però anche diverse sconfitte nella sua transizione dal falco, che era quando aveva approvato i primi insediamenti israeliani nella Cisgiordania occupata, alla colomba che con Rabin e Arafat vinse il premio Nobel per la pace per avere portato Israele e l'OLP al riconoscimento reciproco. There was a time. C'è stato un tempo in cui si combatteva per mancanza di alternative, disse ricevendo il premio. Oggi è la pace l'unica opzione. Era il 1994, la pace in Medio Oriente non c'è ancora, ma lui, Peres, fino allo scorso agosto ha creduto nella pace. Non capisco perché la gente sia pessimista. Fu probabilmente più amato all'estero che in patria, come Gorbaciov, con cui nel 93 festeggiò l'80° compleanno insieme a molti altri amici ed estimatori. Da Bill Clinton, che si esibì con un coro di ragazzi israeliani ed arabi, a Woody Allen, che gli mandò le congratulazioni. Da un cattivo ebreo, scrisse, a un grande ebreo. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Continueremo a parlare di Shimon Peres più tardi all'interno di Effetto Giorno. Adesso le altre notizie. Il fuciliere della Marina Massimiliano Latorre, Massimiliano non Massimo come ho detto nei titoli, resterà in Italia fino alla fine dell'arbitrato internazionale all'Aia, sostanzialmente con le stesse condizioni già disposte per l'altro Marò, Salvatore Girone. Lo ha deciso oggi la Corte Suprema di Nuova Delhi e la Farnesina si è felicitata per questa decisione. Truppe siriane lealiste si stanno ammassando dentro e fuori Aleppo per condurre una vasta offensiva di terra, la più massiccia dalla fine della tregua della scorsa settimana. Lo riferisce la TV Al Jazeera, citando testimoni locali nella città. Le fonti affermano anche che le forze di opposizioni armate si stanno preparando alla battaglia all'interno della città. Anche oggi sono arrivate notizie di morti nella città di Aleppo, dove due ospedali sono stati bombardati. Adesso veniamo alle vicende politiche di casa nostra. Il governo ha approvato la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, il DEF, che contiene le principali previsioni macroeconomiche che serviranno poi per fare la legge di bilancio che verrà presentata entro il 20 ottobre. Ecco che cosa prevede il governo. Crescita rallentata e due eventi eccezionali, il terremoto di Amatrice e i migranti, spingono il governo a rivedere le stime dei conti pubblici per la messa a punto della legge di bilancio 2017. E così il prossimo anno l'incremento del prodotto interno lordo si fermerà all'1% e non all'1,4% stimato in aprile. Il deficit salirà dall'1,8% al 2%, ma con la possibilità di arrivare fino al 2,4%. Un margine di 0,4 punti di flessibilità in più per terremoto e migranti, legato al via libera del Parlamento e soprattutto di Bruxelles. Spese eccezionali che il governo vuole assolutamente tenere fuori dal patto di stabilità europeo. Il rallentamento dell'economia spinge a rinviare al prossimo anno anche il calo del debito in rapporto al PIL, che scenderà al 132,2%. Per il 2016 il debito salirà al 132,8%, mentre la crescita del PIL si fermerà allo 0,8% dall'1,2% previsto in aprile e il deficit al 2,4% dal 2,3%. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ma quali sono i nodi principali e soprattutto il dato politico più importante? Adesso ci colleghiamo con Vincenzo Miglietta in diretta da Montecitorio. Buongiorno Vincenzo. Sì, buongiorno. Nodo politico, Enrico, che ruota attorno ai margini operativi a disposizione di Palazzo Chigi sul deficit. È una partita a scacchi, infatti, quella con Bruxelles, con le istituzioni europee che tengono il punto e per non creare precedenti dicono no ad una nuova flessibilità dopo quella dello scorso anno che, ricordiamo, ha consentito al governo italiano di poter disporre di 19 miliardi di euro in più. Renzi e Padoan hanno spiegato allora che quest'anno utilizzeranno la leva delle circostanze eccezionali, un altro strumento europeo, per avere un ulteriore 0,4 di deficit, destinando così le risorse al nodo migranti e all'emergenza sisma. Sempre di flessibilità si tratta, al di là di come poi la si chiami, flessibilità contro austerity, che, è tornato a spiegare il Presidente del Consiglio Renzi, è la ricetta per l'Europa. Ma sentiamo Renzi. È stato un errore, non la nostra scelta, è stato un errore il fatto di aver investito sull'austerity. Vi do un numero perché sia chiaro. Nel biennio peggiore, il 2012-2013, i denari sugli investimenti pubblici in Italia sono stati sostanzialmente dimezzati, da 40 miliardi l'anno a 20 miliardi l'anno. È evidente che poi, a fronte di una diminuzione di oltre 1,3% di PIL sugli investimenti, vi sia un corrispondente calo nella crescita economica del Paese. E oltre al tema degli investimenti c'è, adesso cito una parola di cui che si sente molto spesso in queste settimane, la parola pensioni. Oggi c'è un appuntamento molto atteso, molto importante. Vincenzo, di cosa si tratta? Sì, è così il capitolo pensioni che dovrebbe vedere nel primo pomeriggio l'atto finale dell'intesa tra governo e sindacati. Si dovrebbe chiudere il confronto avviato a fine maggio, anche se il nodo resta quello delle risorse previste al momento tra 1,5 e 2 miliardi. L'intesa sarà quindi assorbita dalla legge di stabilità. Diverse le novità sul tavolo: anticipo pensionistico fino ad un massimo di 3 anni e 7 mesi, bonus per i precoci, coloro, lo ricordiamo, che hanno iniziato a lavorare prima dei 18 anni, aumento delle 14esime. È tutto, linea allo studio. Grazie a Vincenzo Miglietta, collegato con noi da Roma, da Montecitorio. E a proposito della Camera, questa mattina all'unanimità è stata approvata la proposta di legge per la valorizzazione dei piccoli comuni con popolazione fino ai 5.000 abitanti. Il provvedimento passerà ora all'esame del Senato. Adesso parliamo del Movimento 5 Stelle. 100 giorni da sindaca non sono bastati a Virginia Raggi per completare la sua squadra. Ieri la prima cittadina ha dovuto incassare l'ennesimo rifiuto, quello di Salvatore Tutino, la cui nomina ad assessore al bilancio venerdì sembrava cosa fatta. Sono vittima di una lotta fra bande nel Movimento 5 Stelle, ha spiegato il consigliere della Corte dei Conti, che nei giorni scorsi era stato bollato come membro della casta da esponenti pentastellati di primo piano. Nel tentativo di arginare le polemiche interne, Beppe Grillo ieri ha chiesto ai portavoce del movimento di non rilasciare più dichiarazioni sulla situazione in Campidoglio. Nonostante il no alle Olimpiadi, nel frattempo, per riqualificare trasporti e periferie, Raggi ha chiesto al governo di siglare un patto per Roma, col quale mettere a disposizione della capitale le risorse che sarebbero arrivate per i giochi. Gelida però la risposta di Palazzo Chigi. Raggi non pensi di bleffare, quei soldi andranno alle altre città ancora candidate. Aver rinunciato ai giochi toglierà risorse alle periferie romane, taglia corto il sottosegretario De Vincenti. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. È stato presentato questa mattina il piano industriale delle Ferrovie dello Stato. 94 miliardi di euro di investimenti in 10 anni, una crescita del fatturato da 9 a 17,6 miliardi e un balzo dei dipendenti da 69.000 a 100.000. Sono questi i pilastri del piano industriale 2017-2026 di Ferrovie dello Stato, presentato questa mattina a Roma alla presenza di Matteo Renzi. Un piano molto bello perché sa guardare al futuro, il commento del Premier. Di rivoluzione culturale e discontinuità con il passato ha parlato il presidente di FS, Ghezzi. Più del 70% della crescita arriverà infatti da attività fuori dal business attuale. Tra gli obiettivi, l'espansione all'estero e l'aumento della quota di mercato nel trasporto su gomma, gli autobus. Poi l'annuncio: la fusione tra ferrovie e autostrade si farà. FS e ANAS diventano sorelle, ha confermato l'amministratore delegato Mazzoncini, che sul fronte quotazione ha spiegato: divideremo Trenitalia in due e in borsa. Tra circa un anno andrà una percentuale percentuale non inferiore al 30% della nuova divisione Frecce. Sono molto felice che la rete resti pubblica, ha sottolineato il ministro Delrio. Livia Zancanero, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ancora notizie che arrivano da Roma. Oggi c'è stata una manifestazione degli ambulanti contro la liberalizzazione delle licenze che, come ad esempio per le spiagge, dovrebbero essere messe a gara. Ambulanti dei mercati rionali in piazza oggi contro la Bolkestein, la liberalizzazione delle licenze imposta dall'Europa al governo con una direttiva del 2012. Secondo i manifestanti sostenuti da UGL, parte di CISL e Movimento 5 Stelle, la direttiva manda in rovina un settore con 200.000 imprese. A Piazza Esedra ha parlato anche l'ex sindaco Gianni Alemanno. Qui c'è tutto un popolo che rischia di scomparire. Ma Confcommercio e Confesercenti non appoggiano la manifestazione. Maurizio Innocenti, presidente di Confesercenti. Tutte le ditte regolarmente iscritte e tutte le ditte regolarmente in regola con i propri obblighi non corrono nessun tipo di rischio. Pur rispettando il libero arbitrio di volersi operare o meno, non condividere le scelte di altri, però noi garantiamo tutti con questa operazione. L'iniziativa di oggi tende a garantire interessi privati. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Una notizia arrivata poco fa che leggiamo insieme. Tre maestre di una scuola elementare di Partinico in provincia di Palermo sono state arrestate e poste ai domiciliari della Guardia di Finanza per maltrattamenti nei confronti dei propri alunni. Sono stati alcuni genitori a segnalare atteggiamenti dei propri figli che lasciavano intendere comportamenti non del tutto corretti durante l'attività in aula. Le intercettazioni ambientali e le videoriprese mostrano le violenze fisiche e psicologiche sui bambini, minacce verbali, schiaffi, pizzicotti, calci, anche nei confronti di un bambino disabile. Sono state depositate le motivazioni della sentenza con la quale i giudici della Corte d'Assise di Bergamo hanno condannato all'ergastolo il 1 luglio Massimo Bossetti per l'omicidio di Yara Gambirasio, la ragazzina di 13 anni scomparsa da Brembate di Sopra il 26 novembre 2010 e trovata uccisa a Chignolo d'Isola, a pochi chilometri da casa, esattamente 3 mesi dopo. A quanto si sa è probabile che il PM Letizia Ruggeri, che ha condotto le indagini e ha rappresentato l'accusa, presenti ricorso in appello contro la soluzione del muratore dall'accusa di calunnia nei confronti di un ex collega di lavoro. Questa notte sono stati rubati tutti i computer della nuova scuola media di Acqua Santa Terme in provincia di Ascoli Piceno, uno dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto del 24 agosto. Ne ha dato notizia molto amareggiato, il sindaco Sante Stangoni. La scuola era stata inaugurata il 14 settembre. Tre notizie che arrivano dall'estero. Un afroamericano è morto in ospedale dopo essere stato ferito da diversi colpi d'arma da fuoco ieri sera dalla polizia alla periferia di San Diego, in California. L'uomo era disarmato, ma aveva estratto un oggetto dalla sua tasca e lo aveva puntato contro gli agenti. Dopo la sparatoria, numerose persone hanno protestato in strada per diverse ore, accusando la polizia di razzismo. Il ministro della giustizia turco Bekir Bozdag ha detto che sono circa 32.000 le persone arrestate in Turchia in relazione al fallito colpo di Stato del 15 luglio. In totale sono 70.000 le persone sotto inchiesta perché sospettate di avere legami con il movimento di Fethullah Gülen, il predicatore islamico in autoesilio negli Stati Uniti, considerato da Ankara la mente del golpe. Ieri è stato il turno anche dei servizi segreti turchi con il licenziamento di 87 dipendenti e l'avvio di indagini su 52 persone. L'eruzione di un vulcano in Indonesia, dove ce ne sono 130 di attivi di vulcani, ha costretto le autorità all'evacuazione di circa 400 turisti, la maggior parte dei quali sono stranieri, dall'isola di Lombok, ad est di Bali. Il vulcano ha iniziato la sua attività nel pomeriggio di ieri, sparando in aria dense colonne di fumo nero, alte fino a 2 chilometri. Sono le 13:14 minuti, prima della viabilità, il calcio, goleada della Juventus in Champions League. I bianconeri hanno battuto in trasferta la Dinamo Zagabria per 4-0 e questa sera tocca al Napoli, che ospiterà il Benfica. Conferme Cercasi, macchina da gol che marcia sicura sulle tracce della Juventus in campionato, per nulla orfana del bomber Higuain visto l'inizio d'annata di Callejon, Milik e Soci, forte della vittoria a Kiev all'esordio in Champions. Sorride il Napoli di Maurizio Sarri in questo primo scorcio di stagione, ma proprio per tutti questi motivi l'incrocio col Benfica di stasera al San Paolo vale doppio. I tre punti lancerebbero gli azzurri verso gli ottavi e consoliderebbero il nuovo corso partenopeo. Occhio però ai lusitani, da sempre nella nobiltà calcistica continentale, avverte Jorginho. Benfica sta facendo cose straordinarie, se non mi sbaglio sono 9 mesi che non perdono fuori casa, quindi sicuramente è una squadra da temere e rispettare tanto. Esame di maturità quindi per Sarri e i suoi ragazzi, perché in Europa oltre i gol servono lucidità e sangue freddo, sottolinea l'allenatore. Dal punto di vista della mentalità siamo una squadra che ancora ha dei margini di miglioramento enormi. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sono le 13, 15 minuti e 30 secondi, questo è Effetto Giorno, siete all'ascolto di Radio 24, riprendiamo tra poco. JP Morgan Asset Management vi presenta Effetto Giorno. Riprende Effetto Giorno, queste le notizie principali. Il mondo saluta Shimon Peres, uomo della pace, aveva vinto anche il premio Nobel 12 anni fa. Anche il secondo dei Marò, Massimiliano Latorre, potrà rimanere in Italia fino al termine dell'arbitrato fra Italia e India. Ad Aleppo il governo siriano prepara una vasta offensiva di terra, anche oggi bombardati 2 ospedali in città. Si farà la fusione fra le Ferrovie dello Stato e l'ANAS. Nel nuovo piano industriale dell'FS, previsti investimenti per 94 miliardi nei prossimi 10 anni, crescerà anche il personale. Ne ho parlato, è stata l'apertura anche di questa edizione di Effetto Giorno, oltre che di GR24 tutta la mattina, della morte di Shimon Peres. È con noi a Effetto Giorno Avi Pasner, che è stato ambasciatore israeliano in Italia. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie. Lei era anche uno degli amici di Shimon Peres, dico bene? Sì, io ero un grande amico personale di Shimon Peres da molti, molti anni. Quando abbiamo lavorato insieme, quando lui era già ministro degli affari esteri, io ero ambasciatore in Italia e poi ero ambasciatore in Francia, abbiamo lavorato insieme, siamo diventati amici e per quella la ragione che io risento una enorme tristezza, non soltanto come israeliano che ha perso una figura gigantesca, però come amico personale anche. Che cosa è rimasto oggi nella politica, della politica di Shimon Peres nell'Israele di oggi? No, è rimasto molto, perché uno deve ricordare che Shimon Peres prima di tutto era l'uomo della sicurezza. Shimon Peres per molti, molti anni era ministro della difesa di Israele. Prima di prendere la strada per la pace, lui ha voluto rendere Israele forte e poi lui ha approvato di fare la pace. È difficile questa pace e ci ha provato con il processo di Oslo nel 93 e poi altre volte, e non è andato come lui sognava. Però lui non ha mai lasciato la speranza per la pace, anche fino all'ultimo giorno, 2 settimane fa, prima che si è ammalato, lui parlava della pace e lui, nell'ambito del Centro Peres per la Pace, organizzava dei dialoghi, dei colloqui, delle cooperazioni con i nostri vicini palestinesi, nella speranza che così mettiamo il contatto fino al giorno che potremo continuare il negoziato. Lui ha mai perso la speranza e ogni giorno diceva: bisogna sperare e aspettare, e sì, la pace verrà. Lui diceva anche: la pace è vicina, ma arriverà dopo la nostra generazione. Sì, diceva così e lei vede che aveva ragione, perché non so che vuol dire nostra generazione, però lui non ha visto la pace, lui è scomparso, ha lasciato evidentemente una testimonia molto importante, però lui ha visto la pace con l'Egitto, che è importante, la pace con la Giordania, che è molto importante, purtroppo la pace con i palestinesi non c'è ancora, però ripeto, lui non ha mai perso la speranza, verrà il giorno della pace anche con i palestinesi, è peccato che lui non l'ha visto. Grazie di essere stato con noi, buona giornata, a presto. Buona giornata, grazie. Era Avi Pasner, ex ambasciatore israeliano in Italia. Adesso cambiamo argomento, sono le 13:23 minuti. Giustamente mi fanno notare dalla regia che ho fatto un errore di calcolo. Se Peres ha vinto il Nobel per la pace nel 94, sono passati non 12 ma 22 anni. Corretto, giusto. Adesso dicevo, cambiamo argomento. Dopo circa 5 mesi di vita, la rivista New Scientist ha svelato la storia del primo bambino nato grazie ad una tecnica di fecondazione assistita grazie al DNA di una persona terza rispetto ai genitori. Ci sono quindi tre DNA in questo bambino che è nato appunto 5 mesi fa. Sentiamo il servizio, poi avremo un ospite per chiarire questa interessante vicenda. Abrahim ha 5 mesi, un papà e due mamme. Dentro di sé, infatti, il piccolo ha il DNA di tre persone. Quella che avrebbe dovuto essere la sua unica madre è portatrice di una malattia genetica che colpisce il sistema nervoso in via di sviluppo. Malattia che aveva già causato la morte dei suoi primi due figli. Così, dopo il via libera negli Stati Uniti da parte dell'Accademia delle Scienze e ugualmente dalla Gran Bretagna, si è deciso per l'intervento. Il piccolo ha il DNA del padre, quello della madre, mentre appartiene ad una donatrice il DNA esterno al nucleo, quello dei mitocondri, potenzialmente pericolosi. L'intervento è stato eseguito in Messico da un'equipe medica statunitense. I test mostrano ora che meno dell'1% dei mitocondri del piccolo contengono il gene mutato, mentre per innescare la malattia si stima ne serva almeno il 18%. Abrahim ha 5 mesi e 3 genitori e, dicono i medici, sarà sano. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Famiglia che proviene dalla Giordania, medici americani, ospedale messicano. Buongiorno a Giuseppe Novelli, un genetista dell'Università di Roma Tor Vergata, benvenuto. Buongiorno a voi. Abbiamo detto tutto correttamente, perché poi in queste notizie... No, tranne il fatto che i genitori sono sempre due, quindi non cominciamo a dire sono tre genitori, perché non ha assolutamente nessun senso né scientifico né diciamo così filosofico o etico. I genitori sono due e rimangono due, perché il DNA è fatto dal, diciamo così, quello principale, cioè il 99,99,5% è fatto dal DNA del padre e della madre, e quindi il figlio è loro. Questo bambino avrà lo 0,005% del DNA mitocondriale, che si trova dentro le nostre cellule, che proviene da una donatrice, che questo DNA mitocondriale, ho detto quella quota di cui parlavo prima, è una microfrazione rispetto a tutto quello che i geni del bambino proveniente dai genitori. Le faccio un esempio. I nostri geni sono 20.000 circa e vengono dal padre e dalla madre. Il DNA mitocondriale sono solo 37 geni. Quindi parliamo di un qualcosa che non ha niente a che fare col fatto che c'ha due madri, due padri, eccetera, eccetera. Bene. Per quale motivo è stato innestato questo DNA nell'ovulo della madre? Perché il DNA mitocondriale della mamma, avendo avuto già due figli malati, morti e deceduti per questa terribile malattia multisistemica, era un DNA mutato, cioè i mitocondri della mamma erano malati. Di conseguenza, questa ogni volta che si riproduce trasmetteva questa malattia ai propri figli, perché le malattie mitocondriali si trasmettono attraverso l'uovo, perché si trasmette attraverso le mamme. Di conseguenza questa portatrice di questa malattia ovviamente non era in grado di poter, ha avuto già due figli malati, non c'è nessun test oggi prenatale che si possa fare, né tantomeno una terapia per questa malattia. La tecnologia ha offerto una possibilità di utilizzare una tecnica di fecondazione artificiale trasferendo esattamente questo, da un ovulo di una donatrice che ha fornito i mitocondri sani, non il DNA della donatrice, questo vorrei che sia chiaro, per cui di mamma della donatrice non c'ha niente. Lei si immagini che noi abbiamo le ovodonazioni quando succede, no? Che uno fornisce l'ovocita di un'altra donna, allora quello sì è il DNA proveniente da fuori, ma qui ha fornito pochi mitocondri, cioè il DNA mitocondriale non ha un gran peso sulla crescita o sullo sviluppo di questo bambino. Senta, perché sono andati in Messico? Non si possono fare queste cose in Europa o negli Stati Uniti? No, in Inghilterra è stato autorizzato già da gennaio, cioè l'autorità inglese per la fertilizzazione l'ha già approvato, quindi non so, adesso questo è il caso specifico, c'è stata una ragione tecnica, biologica, del motivo perché c'è stata la donazione più facile o meno burocratica, ma credo che sia una tecnica alla portata di tutte diciamo così, i laboratori europei che possono farlo. Insomma, da questo punto di vista non ci sono problemi, diciamo, tecnologici. Certo, ma ci può essere qualche problema etico, giustamente legato ai comitati etici che sanno fare il loro mestiere e decideranno di caso in caso. Certo, perché qui si tratta di avere la certezza che un bambino nascerà senza malattie o solo stiamo parlando solo di una particolare malattia. Stiamo parlando di questa malattia. È impossibile che uno possa pensare di fare un bambino senza nessuna malattia. Nessuno al mondo ha un DNA, diciamo così, perfetto, perché il DNA muta e noi ogni volta che decidiamo di riprodurci corriamo il rischio di fare un figlio malato. Certamente non avrà la malattia di lì, per cui questa è stata diciamo prevenuta, ma potrebbe avere qualunque altra malattia come chiunque di noi. Non esiste un genoma perfetto al mondo, probabilmente non è mai esistito e forse non esisterà. Senta, le faccio un'ultima domanda. Questa tecnica apre, secondo lei, un dibattito etico importante o si tratta, dal punto di vista scientifico, di una quasi normale fecondazione artificiale con le particolarità che lei ci ha illustrato e spiegato? No, escludo che possa trattarsi di situazioni come ho potuto leggere in qualche giornale, manipolazione, non è stato toccato nessun DNA, non è stato toccato nessun gene, non è stato tagliato o inserito nessun carattere, per cui da questo punto di vista escludo. E ovviamente non posso escludere il fatto che ogni nuova tecnologia, perché la tecnologia va molto veloce in questo campo, naturalmente pone nuovi interrogativi, anche di tipo etici, morali e filosofici, che vanno affrontati nelle sedi giuste, nelle strutture giuste, e secondo me noi abbiamo tutti gli strumenti per affrontarli in modo adeguato. Voglio solo aggiungere una cosa che a tutti spesso ci sfuggono, no? Dice questo DNA dei mitocondri è qualcosa di strano. Voi pensate che noi viviamo con 100 trilioni di batteri nel nostro intestino, ognuno di loro ha un suo DNA, quindi noi siamo un superorganismo in cui viviamo con un DNA dei batteri che è 10 volte più grande di quello in tutte le nostre cellule. Quindi voglio dire, questa è la realtà delle cose, la scienza ci dice questo oggi. Grazie a Giuseppe. La lasciamo alla fantascienza, arrivederci. Grazie a Giuseppe Novelli dell'Università di Roma Tor Vergata, alle 13:30 minuti, questo è Effetto Giorno, siete all'ascolto di Radio 24, tra poco. Effetto Giorno. Riprendiamo, queste le notizie principali di Effetto Giorno. Il mondo saluta Shimon Peres, uomo della pace, aveva vinto il premio Nobel 22 anni fa. Anche il secondo dei Marò, Massimiliano Latorre, potrà rimanere in Italia fino al termine dell'arbitrato con l'India. Ad Aleppo il governo siriano prepara una vasta offensiva di terra, anche oggi bombardati due ospedali in città. Si farà la fusione tra le Ferrovie dello Stato e l'ANAS nel nuovo piano industriale della FS presentato oggi. Previsti investimenti per 94 miliardi nei prossimi 10 anni, crescerà anche il personale. E adesso le informazioni dai mercati finanziari. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presento. State ascoltando un programma offerto da Microsoft Dynamics, soluzioni ERP e CRM per accelerare il tuo business. Effetto giorno. Riprendiamo con una notizia che riguarda i BOT e i BTP. Allora, il Tesoro ha collocato tutti i 6 miliardi di euro di BOT a 6 mesi offerti in asta oggi. Il rendimento medio è sceso a meno 0,257 da meno 0,236 del collocamento di agosto e si avvicina così al minimo storico di meno 0,262 registrato a maggio. Per quanto riguarda i rendimenti dei BTP a 5-10 anni in asta domani, sono attesi in leggero rialzo rispetto alle aste precedenti, siamo attorno allo 0,32 per i 5 anni e all'1,14% per il decennale. Un'altra notizia riguarda un collocamento, un maxi collocamento alla borsa di Hong Kong per Postal Savings Bank of China. una mega banca cinese. La quotazione è la più corposa degli ultimi 2 anni a livello mondiale e ha fatto affluire nelle casse del governo di Pechino 7,4 miliardi di dollari, ma i 3/4 delle nuove azioni sono stati sottoscritti in prevendita soprattutto da entità sotto il controllo pubblico cinese. Torniamo in Europa, oggi alla Camera Bassa tedesca a Berlino parlerà il presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi, un intervento atteso visti i rapporti, diciamo, tesi che ci sono tra la Germania e la BCE. Alessandro Merli, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte. Buongiorno Alessandro. Sì, buongiorno, sono a Berlino davanti al Bundestag dove fra un'ora circa arriverà Draghi, avrà prima un breve incontro di cortesia con il Presidente del Parlamento Lammert e poi parlerà a porte chiuse su richiesta del Bundestag alla Commissione Affari Europei. Come dicevi, i rapporti non sono sempre idilliaci tra Draghi, la BCE e le autorità tedesche, molto meno con i politici tedeschi e l'establishment finanziario. Le ragioni, diciamo, del contendere sono sostanzialmente due. Uno, la politica dei bassi tassi di interesse della BCE che secondo i tedeschi penalizza le loro banche, i loro risparmiatori, e l'altra più recente è questa sollecitazione di Draghi alla Germania a fare di più dal punto di vista dello stimolo fiscale. I tedeschi sono convinti che da un lato che non ce ne sia bisogno e dall'altro che non tocchi alla BCE appunto fare di questi richiami. Quindi è un discorso a porte chiuse, ho capito bene? Draghi farà un breve discorso a porte chiuse, ci saranno le domande dei parlamentari tedeschi, probabilmente saranno la parte più interessante perché potranno esporre tutte le loro rimostranze. Alla fine di questa parte, appunto tutta a porte chiuse, Draghi e il Presidente della Commissione Affari Europei del Bundestag usciranno per un breve incontro, un breve punto stampa e un breve incontro con i giornalisti nel quale speriamo che rispondano ad alcune domande. Certo, comunque quello che si diranno probabilmente lo sapranno solo loro, poi cioè, ovviamente qualcuno riferirà. Alessandro, grazie e buon lavoro. Grazie a voi. Sono le 13:40 minuti, adesso ci spostiamo al confine tra l'Italia e la Francia. Ricorderete qualche giorno fa la Svizzera, in particolare il Canton Ticino, almeno nelle intenzioni c'è stata una consultazione popolare, non un vero e proprio referendum con valore legale, ma un'indicazione da parte dei cittadini che vorrebbero mettere un freno ai lavoratori stranieri, cosiddetti frontalieri. Roberto Lacchin, vicepresidente dell'associazione FAI, adesso spieghiamo che associazione è. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. Frontalieri autonomi in Temeli, ci sveli subito questo nome, da dove arriva? Esatto, beh, il nome è la sigla di un'associazione fatta completamente di volontari, e il consiglio direttivo è formato solo da frontalieri e pensionati frontalieri, e la nostra sigla FAI non è per caso, frontalieri autonomi in Temelie, perché ci siamo voluti smarcare da qualsiasi aggancio politico. Siamo autonomi, indipendenti e soprattutto volontari. In Temelie da dove arriva? In Temelie è la nostra zona di confine, la zona del Ponente Ligure, si è chiamata la zona in Temelia. Perfetto. Diciamo che comprende fra Ventimiglia e Sanremo fino ad arrivare all'Imperia. La situazione lì è un po' diversa rispetto alla Svizzera. Ricordiamo che non c'è solo la Francia, ma c'è anche Monte Carlo, il Principato di Monaco. Sì, infatti il Principato di Monaco è quello che accoglie il maggior numero di frontalieri. Siamo ad oggi circa sui 3.800 nel Principato di Monaco, mentre in Francia ci aggiriamo intorno al migliaio, diciamo. Quindi sui 4.000-5.000 frontalieri che ogni giorno varcano il confine per recarsi a lavorare oltre frontiera. Quanto si guadagna rispetto all'Italia? Ma guardi, non c'è una quota fissa. Il vantaggio che c'è lavorando di là è che c'è una paga fissa. Quello di cui si discute adesso in Italia, un salario minimo, viene chiamato SMIC, ed è fissata intorno ai 1.500 euro per 39 ore settimanali. Quindi in teoria non si può guadagnare meno di questa cifra. Sì, questo quindi è il vantaggio di fare il frontaliere rispetto ad altre occupazioni. E per Monte Carlo come vanno le cose? Monte Carlo direi che vanno molto bene, perché malgrado la crisi, malgrado anche a Monte Carlo ci siano state molte fabbriche che hanno delocalizzato in posti dove hanno tassazioni agevolate, e tuttavia il numero degli occupati è sempre in crescita, perché Monaco ha adottato una politica di reintegrazione del lavoratore licenziato. Infatti, sebbene anche nel Principato esiste una vecchia legge in cui si dava la priorità ai monegaschi, poi ai paesi limitrofi, man mano, non tanto per nazionalità quanto per distanza dal Principato. Oggi non si tiene più conto di questa legge, gli italiani sono messi sullo stesso piano dei francesi e dei monegaschi. Anzi, a questo proposito vorrei appunto specificare, grazie alla nostra associazione che ha lavorato insieme al Ministro degli Affari Sociali e del Lavoro, Stéphane Valéry, abbiamo stabilito che gli italiani erano appunto, avevano quasi una corsia preferenziale per essere riassunti. Il Principato infatti, chi perde il lavoro propone altri tipi di lavoro, facendo fare anche dei corsi di aggiornamento tipo inglese completamente gratuiti, oppure di corsi, a Monaco va molto la sicurezza. Certo, quindi immagino. Operai che magari prima facevano gli operai in fabbrica si ritrovano a cambiare tipo di lavoro, però diciamo lavorano, ecco. Certo. Ed è questa la ragione per cui, nonostante tutto, alla fine dell'anno del 2015 il numero di impiegati a Monaco è aumentato. E ci sta raccontando una storia che è sicuramente diversa da quella che, almeno nelle intenzioni, e poi perché per il momento non è cambiato nulla per quanto riguarda la Svizzera. Grazie e buon lavoro. Di niente. Arrivederci, grazie a voi. Roberto Lachin, vicepresidente di questa associazione, una notizia che è stata riportata dalla stampa oggi, che appunto parla di questo buon rapporto al confine tra Italia e Francia. Viabilità.